Diciamo il 500, quindi diciamo il pieno Rinascimento, è davvero il momento di una grande riflessione, di un'importante riflessione sulla lingua, quale? Quella scritta, eh? Perché diciamo fin da subito si sa che di italiani ce ne sono tanti, di lingue italiane, perché ci sono tante varietà regionali, tante parlate. Il problema è appunto quale lingua dare allo scritto? Quindi la questione della lingua per secoli rimane una questione letteraria, cioè in che lingua devo scrivere? Ma la risposta in un certo senso era molto a portata di mano, il latino. Scrivo in latino e così siamo tutti d'accordo, col latino si tagliano le differenze, le incoerenze, la disomogeneità dei parlati. Dante, che avrebbe potuto scrivere la Divina Commedia in latino, sceglie il volgare, cioè sceglie una parlata e sceglie il suo fiorentino. E facendo questo è costretto a nobilitare il volgare, cioè nell'atto stesso di scegliere il volgare dice: ma il volgare è lingua nobile. Cioè è un gesto che si porta, diciamo, non solo la novità di imporre per un poema così importante, che ha quelle pretese, la lingua di tutti, ma che presuppone, nell'atto stesso di fare ciò, la sua nobiltà. Lo stesso fa in un certo senso Petrarca, scrivendo il suo canzoniere, che è anche un tentativo di perfezionare il volgare dantesco, attraverso un raffinamento stilistico e ha una maggiore cautela nella scelta del lessico. La Divina Commedia è una grande enciclopedia delle parole, parole del popolo, parole alte, parole latineggianti, neologismi, arcaismi, francesismi, provenzalismi. Petrarca invece inventa, proprio inventa, una lingua uniforme, che evita le varianti, dove quello che si dice in latino il verborum dilectus, cioè la scelta del vocabolo, è attentissima, è ispirata fondamentalmente a eufonia, a musicalità e eleganza, eleganza. Quindi meno parole, per un codice più ristretto, regolato, autosufficiente, imitabile. E infatti Petrarca imita moltissimo se stesso. Quando noi siamo dentro al canzoniere di Petrarca abbiamo l'impressione veramente di: ma questa poesia l'ho già sentita, sì, perché assomiglia moltissimo a un'altra. Magari c'è una piccola differenza e Petrarca è bravissimo a, come dire, dire cose diverse usando le stesse parole. Ma non dimentichiamo che il 90% dell'opera di Petrarca è in latino, moltissimo di Boccaccio è in latino, anche se poi Boccaccio scrive il Decameron, che è in volgare. Quindi diciamo il latino, questo non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, resta comunque la lingua universale dell'Italia, anche se abbiamo tre esempi così clamorosi di volgare come Dante, Petrarca e Boccaccio, i quali stessi però praticavano il latino pure Dante, ovviamente, no? Di monarchia in latino, eccetera. Certe poesie. Arriviamo al 400. Il 400 bandisce praticamente il volgare, perché appunto neanche questi tre grandi scrittori bastavano a legittimarlo. È l'epoca delle grandi riscoperte filologiche, torna in auge Cicerone, saltano fuori un sacco di opere che non si erano lette, Quintiliano, eccetera, eccetera. Insomma, il latino deve essere la lingua degli scrittori. Per la fine del Quattrocento, e qui c'è il grande cambio di guardia, si dice: ma no, ma anche l'italiano, il volgare, ha una sua grammatica, una sua uniformità, una sua autorevolezza. E ce la dà nelle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio. In realtà qualcuno, cioè Pietro Bembo, un veneziano, dice: Petrarca più di Dante, proprio per le ragioni che ho appena detto, perché la lingua di Petrarca è più elegante, più contenuta, più maneggiabile, più universale, più atemporale. Lì si fissa per la prima volta una regola per la lingua scritta italiana, cioè se vogliamo fare i poeti dobbiamo scrivere come Petrarca, non importa che siamo nel 500, non importa che Petrarca sia morto da 150 anni, la sua lingua viene come diciamo messa nell'ambra e lì vivrà. Vivrà per secoli, perché diciamo la lingua della poesia italiana è rimasta petrarchesca nelle forme ufficiali, diciamo, poi certo ci sono i dialetti ancora. Le infrazioni sono incontabili, innumerevoli, però diciamo nella grande storia della letteratura italiana, quella ufficiale, è il petrarchismo a far da scuola. La prosa invece si ispira al Decameron di Boccaccio e questo fa sì che per secoli, e Leopardi di questo si lamenterà, la prosa italiana sia particolarmente elaborata, ciceroniana, sintatticamente molto contorta, grandiosa, pomposa, bellissima, ma anche di difficile utilizzo.